La vampira è una che prova a parlare di vita oltre i confini di genere, c'è in azione, appunto, come dice già il suo sottotitolo, e vuole fare della filosofia neomaterialista e femminista, e che per questo parte da Spinoza, l'eretico della storia della filosofia occidentale, il primo a pensare la mente come prima idea del corpo. Lavora filosoficamente attingendo appunto alla tradizione postumanista femminista questo testo, riscrivendo Spinoza in chiave ecofemminista, in chiave cyborg femminista. Il corpo diventa il compost, e questa non è una metafora, il compost è quanto di più materiale, ci faccia soggetti animali tra altri soggetti animali, per così dire. E dunque la virale immette nella filosofia monista e materialista di Spinoza delle dosi anche di biologia femminista. Un altro dei scopi e dei temi che affronta l'Eva virale è quello della riscrittura della filosofia materialista tramite la biologia femminista. È per questo che recupero molta l'Imbarburis, ad esempio, la teoria dell'endosimbiosi, la teoria appunto che per prima ci spiega in modo sistematico quanto siamo compost di virus e batteri, e quindi quanto la stessa definizione che ci diamo di persone umane, cioè quella di Homo sapiens, è in realtà fallace, assolutamente androcentrica, no? È del resto stata pensata da un maschio bianco nord europeo, non a caso molto religioso, cioè Linneo. E in questo libro quindi mi propongo di andare un po' oltre la biologia intesa come mansplaining, di provare a rendere visibili i contributi che le donne e le persone LGBTQ hanno dato nella storia della scienza, di modo che appunto riuscissimo a capire che non c'è soltanto del mansplaining nelle scienze, purtroppo c'è anche la pure appropriation, l'appropriazione del lavoro delle donne da parte degli uomini. Invece proprio come femministe dobbiamo fare tutto il lavoro di recupero della storia della scienza femminista, in particolare della biologia, perché ci aiuta a capire scalfire il suprematismo, l'eccezionalismo, come riposizionarci in modo molto più umile e molto più umido nel complesso, diciamo, nel complesso terrestre. Una continuità con il tuo libro, col tuo primo libro Per farla finita con la famiglia, e perché insomma immagino, cioè gli interessi di ricerca sono più o meno quelli, però ti chiedo cosa di diverso Eva virale. Ma intanto sì, c'è una continuità, perché proprio per farla finita con la famiglia scrivevo la biologia, un gigantesco caso di mansplaining, no? Nell'Eva virale mi è venuto proprio forte questo desiderio di capire anche io stessa, di capire appunto insieme alle persone che hanno voglia di leggere e di studiare con me, di capire come in realtà fossero emerse nel corso della storia della scienza altre spiegazioni della vita, del divenire della vita su questo pianeta. Queste spiegazioni venivano proprio da donne, e guarda caso spiegazioni erano state marginalizzate, invisibilizzate, no? Oscurate. E in questo c'è una continuità, perché mi propongo appunto di andare oltre il mainstreaming, di rimettere al centro della scena invece i discorsi sulla transecologia, ad esempio, che oggi sono molto attuali come bacino di risorse a cui attingere per contrastare i danni della sesta estinzione di massa, della grande accelerazione. Quindi io continuo appunto a cercare delle di pensiero e delle pratiche, no? pensiero e lotta, sempre di studio e lotta, che ci permettano di vivere bene insieme a tutte le altre forme di vita su questo pianeta. E vado però molto più a fondo appunto nell'articolarsi del rapporto in Occidente tra scienza e capitale, perché mi interessa proprio dimostrare come la crescita del capitale e la crescita della devastazione delle condizioni proprio della riproduzione stessa sul pianeta vadano purtroppo a braccetto. E quindi poi il punto di condensazione forse dell'intero volume è questa strenua opposizione al capitalismo come unico sistema riproduttivo possibile. possibile, non è affatto l'unico sistema riproduttivo possibile e anche se un libro non può ambire a tanto, il contributo che provo a dire è quello, diciamo, a invitarci a scrivere la fine del capitale per la sopravvivenza terrestre. Ok, quindi fine del capitalismo e anche, diciamo, riscoperta di alcune figure che hanno fatto un po' la storia della scienza, soprattutto per essere anche state dimenticate, tipo Liz Meitner. So che è una protagonista di Eva Virale, quindi se ci dici due parole a riguardo, grazie. Sì, hai ragione, ho citato appunto la teoria delle due simbiosi, Haraway, Margulis, ma non Liz Meitner, che io tra l'altro leggo e interpreto alla luce appunto, di Sandra Harding, The Standpoint Theory. Mi interessa moltissimo appunto Liz, che è nota per aver scoperto il processo di fissione nucleare ed è un caso appunto di Bro Appropriation, perché sappiamo che poi il Nobel lo vince Ann, no? Nel 1946. Mi interessa tantissimo questa figura perché Liz era una convinta antimilitarista e in questo momento storico ci dice tantissimo il suo posizionamento, no? La storia appunto di questa donna che per entrare nella comunità scientifica ha dovuto lottare, che era costantemente messa ai margini, anche perché viveva da ebrea la Germania nazista. Quindi diciamo la compresenza di più linee di assoggettamento e di marginalizzazione, noi troviamo in Smithner, che però non la mai la ricerca scientifica e non la vuole mai, lo esplicita sempre, piegata a bellici, non la vuole mai piegata a scopi militari. Gli Smithner rifiuta l'invito di fermi al progetto Manhattan, scrive a tutti gli scienziati del tempo per dire vi dovete opporre al nucleare nel conflitto armato. È dunque una figurazione molto potente di come a partire da posizionamenti marginalizzati si possa fare un'altra scienza e fare un'altra scienza per me, per le postumaniste, per le cyborg femministe, significa fare pezzettini di mondi nuovi.